trascorrono dentro di me fotogrammi di momenti limpidi e ricordo ancora gli attimi. Sento quel profumo che mi riporta indietro, mi siedo, accendo sullo stereo e il vetro della finestra rispecchia il mio volto. Intanto le luci della città tengono banco, io mi incanto, i miei occhi fissi fuori su questa serata. Chissà che stai facendo adesso, se mi stai pensando, se ogni tanto i tuoi occhi sono lucidi per i momenti limpidi. Se mi dici ti amo tu non recidi, poi chiudi gli occhi e mediti. Mi si chiude lo stomaco, sento un groppo in gola. Se solamente penso che adesso ti senti sola, vorrei raggiungerti e mi sento come chiuso in gabbia. I momenti limpidi, io e te, il mare, la sabbia. Non vivremo solo di ricordi, ci saranno altri momenti limpidi, inverni rigidi, i nostri corpi riscaldabili, i cuori fragili, momenti irripetibili, speranze infrangibili, i tuoi occhi splendidi, paesaggi autentici. Non vivremo solo di ricordi, ci saranno altri momenti limpidi, inverni rigidi, i nostri corpi riscaldabili, i cuori fragili, momenti irripetibili, speranze infrangibili, i tuoi occhi splendidi, paesaggi autentici. Dicono sia difficile, forse impossibile, dire che un amore per sempre può vivere. Allora mi sento un pazzo, uno fuori dal comune, perché spero che le nostre vite scorrono insieme come un fiume. E vorrei dirti tante cose sotto il cielo dell'estate, baciarti sotto la luna che splende nel mare, sfiorare il tuo dolce viso con una carezza. Sento già il profumo di quella dolce brezza, il sapore della tua pelle, i tuoi capelli sulle spalle. Quelle stelle gialle le prenderei per regalartele. No, amore, adesso guardami. Rincorro pensieri che viaggiano dentro questa musica, il mio cuore batte a mille, mi suggerisce che sei l'unica, una ragazza come tanti, ma una persona sola. Ogni volta che vivi dentro me, la mia fantasia vola. Non vivremo solo di ricordi, ci saranno altri momenti limpidi, inverni rigidi, i nostri corpi riscaldabili, i cuori fragili, momenti irripetibili, speranze infrangibili, i tuoi occhi splendidi, paesaggi autentici. Non vivremo solo di ricordi, ci saranno altri momenti limpidi, inverni rigidi, i nostri corpi riscaldabili, i cuori fragili, momenti irripetibili, speranze infrangibili, i tuoi occhi splendidi, paesaggi autentici.